Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Franco Adami, l'etica delle bollicine, di Massimo Di Scienza. Io non ho avuto la fortuna, perché vorrei dire tale, di conoscere mio nonno. Mio padre era il 13° figlio, però mi ha sempre parlato di mio nonno e soprattutto mio nonno gli ha trasmesso i suoi valori, quelli della ricerca e quelli dell'etica. Bisogna ricercare la qualità, bisogna portarla avanti, non bisogna approfittare di un momento positivo, ma sempre e continuamente investire. Dalla marca trevigiana al mondo. Franco Adami, 50 anni, guida da un decennio con il fratello Armando l'azienda di famiglia. La Adami Spumanti produce da quasi 80 anni il Prosecco, uno tra gli spumanti italiani più apprezzati. La storia della Adami prende il via in un piccolo paese del Veneto che si fa fatica a trovare sulla carta geografica. Se dico il nome del mio paese non lo conosce nessuno, è Colbertaldo. È la frazione di Vidorro, un comune di 3.800 abitanti. Valdobbiadene è la cittadina più famosa, vicina a noi, dista 3 km, quindi abitiamo nel Valdobbiadenese, nell'area più est di questa catena collinare. Piave scorre a pochi metri dai miei paesi, attraversa Vidorro e, come dicevo, se ne va in campagna. È un'azienda che lavora questi vigneti in collina da 3 generazioni. Ho cominciato mio nonno, poi ho continuato mio padre, ora siamo 2 fratelli, entrambi enologi, a condurre un'azienda che dalle mie parti possiamo definire di medie dimensioni, 600.000 bottiglie, tutte di Conegliano e Valdobbiadene, distribuite per il 50% in Italia, per il 50% in paesi stranieri, in 24 paesi stranieri. Questo ci fa già capire che quando parliamo di Prosecco e quando parliamo di Conegliano Valdobbiadene stiamo parlando di un vino e un prodotto, uno spumante che è diventato internazionale in questi ultimi anni. Ambiente che ha il sapore della fatica quotidiana dei contadini, quello che fa da sfondo alla storia della famiglia Adami. Un ambiente forse severo, a ridosso delle prime vette dolomitiche, ma baciato dalla luce del mezzogiorno. E così tutto ha inizio con una fiera in Toscana, a Siena, e una felice intuizione di nonno Abele. Le aziende agricole difficilmente sono databili, di solito si passano di mano di generazione in generazione. Non è come una SPA, un SRL, si va dal notaio e la si fonda. Mio nonno è sempre stato un agricoltore, è probabile che suo padre fosse agricoltore, però stiamo parlando di un momento storico in cui il Veneto era la regione forse fra le più povere d'Italia, l'Alto Trevigiano ancora più povero perché con l'orografia collinare le produzioni erano faticose e difficili, però ci piace dare un inizio di data alla nostra azienda 1933. Poteva essere il 1920, quando mio nonno ha acquistato il vigneto Giardino, poteva essere la fine dell'Ottocento, quando ha iniziato la sua grande famiglia, 13 figli, a piantare vigneti da tutte le parti nel Valdobbiadenese. Ma perché 1933? Nel 1933 in Italia è stata fatta la prima mostra dei vini tipici a Siena. Nel 1933 mio nonno ha rappresentato Valdobbiadene a questa prima mostra dei vini tipici, portando 2 vini, Prosecco di Cartizze asciutto e Riva Giardino asciutto. Ha selezionato i suoi migliori vigneti per rappresentare un'area che ancora non era né Prosecco, né Conegliano, né Valdobbiadene, ancora un'area che non aveva una grande identità, però aveva delle grandi persone, non solo lui, anche altre, grandi persone che hanno investito in un vitigno sconosciuto, credendoci e lavorandoci sopra. Nel 1933 ha rappresentato questo territorio, ma soprattutto ha anche dato inizio alla filosofia aziendale, che è quella della ricerca della massima qualità attraverso anche la ricerca della massima espressione territoriale, quindi separare. Ogni collina è diversa, ogni vigneto è diverso, poi si fa sempre a tempo a mescolare. Quindi 33, secondo noi, è la data sulla quale noi vogliamo dare inizio alla nostra azienda. Il vigneto Giardino per la famiglia Adami è come una seconda casa, da accudire, amare, ogni giorno, dallo sbocciare delle gemme in aprile per arrivare al momento della vendemmia, che per tutti gli Adami, i grandi ma anche i più piccoli, è da sempre il periodo più bello dell'anno. Parlarne per Franco Adami significa aprire il cassetto dei ricordi più preziosi. Eh sì, le prime, noi i bambini sono sempre stati partecipi della vendemmia. È anche tipico del Valdobbiadenese, no? La famiglia che va a lavorare, la famiglia agricola che lavora insieme, padre, madre, figli. La vendemmia si faceva riunendo le famiglie, riunendo i parenti, riunendo anche quegli amici che poi venivano pagati con una damigiana di vino in primavera, ed era un momento piuttosto felice, ma visto da un bambino. Il bambino vede le cose belle di un'attività, non vive le preoccupazioni, non vive le ansie, non vive le tensioni. Io ho anche un ricordo che ho imparato a guidare il trattore molto giovane, quello piccolo che serviva per portare l'uva verso quello più grande, perché lì le stradine sono molto piccole. E poi il mio compito principale era la sera, quando il cortile, casa, cortile, cantina, tutto lì era, si ravvivava molto fino a ora tarda, saltavano i pasti, saltavano gli orari, non potevi rimanere sporco, non serviva che ti lavassi. Sono quelle cose che i bambini amano moltissimo, secondo me, e il mio compito era quello di stare attento ai raspi. Cioè i raspi ne uscivano pochi, la pigiatrice mio padre non era enorme, sembrava fosse un lavoro della fine del mondo per me, invece io dovevo stare attento e non mi muovevo da lì. Momenti veramente felici. È chiaro che poi crescendo con l'età cambiano i momenti, qualcosa rimane, però crescono le ansie e le preoccupazioni, soprattutto perché in 15 giorni decidi il 90% della qualità enologica del tuo vino. Hai tempo un anno per fare un'uva molto buona, che assaggi. Io assaggio moltissimo l'uva, ne degusto, penso mangerò 30 kg d'uva prima della vendemmia per sentirne il gusto, poi decido di vendemmiare e poi c'è l'ansia enologica, ma verrà bene, devo stare attento, hai 100 cose, decidi la tua qualità, senti il peso di questa cosa, allora tanti di quei bei momenti vengono veramente sorpassati da queste ansie. Però insomma ci sono ancora dei bei momenti in vendemmia anche oggi. Il lavoro in cantina è controllato in tutti i suoi dettagli. Ogni elemento viene valutato e verificato con cura ed attenzione. L'obiettivo è quello di regalare ad ogni bottiglia stappata lo stesso standard di qualità. Franco Adami rivela quali devono essere le caratteristiche di un vero prosecco. La primissima in senso assoluto è l'armonia. Il Corneliano Valdobbiadene, cominciamo a chiamarlo col suo giusto nome, vive di armonia. Il profumo fruttato è la seconda cosa che valuto, in armonia fra sé stesso e fra le varie sensazioni di frutta. Mi piace il prosecco di Valdobbiadene quando sa di Macedonia. I prosecchi banali, io dico così, sanno di mela e smalto per le unghie, no? Questo è banalizzare in effetti, no? Ma è rendere molto semplice un concetto. Se io lavoro bene riesco ad esprimere attraverso l'uva prosecco, attraverso la lavorazione in cantina, degli aromi che sono di tante tipologie di frutta. L'armonia poi è anche il gusto, l'armonia è nel rapporto acidi-zuccheri. Il prosecco è sempre un po' rotondo, però deve essere un acidulo fresco e deve essere soprattutto armonico anche in bocca. Non ti deve abbandonare durante la degustazione, ma ti deve portare fino in fondo con un finale asciutto e secco, indipendentemente dall'amabilità che ha. Quell'asciutto che è la parola che ha usato mio nonno alla prima mostra a Siena, presentando il Rivagiardino asciutto. Per Franco Adami, l'impegno in azienda va di pari passo con quello nelle istituzioni per la difesa del suo prosecco, tanto che assume la presidenza del consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, la DOCG, che tutela il prosecco prodotto nella sua tradizionale zona d'origine. Un mercato da più di 50 milioni di bottiglie all'anno, per un fatturato da 370 milioni di euro e che dà lavoro a quasi 3.000 viticoltori. Con l'obiettivo di garantire la qualità del prosecco, il cui successo nel mondo, per Adami, non è solo una moda passeggera. Non è una moda. Intanto sfatiamo questo mito. Prosecco, Conegliano Valdobbiadene e tutto il mondo prosecco non è una moda, perché una moda non può durare 30 anni o 40 anni. È invece un incontro particolare. Chi incontra questo vino, chi incontra questo spumante nel mondo, e questo l'ho provato personalmente, ne rimane affascinato. Per la leggerezza, per la facilità di incontro, per l'armonia di cui parlavo prima, per la gradevolezza, per la digeribilità, per i momenti di consumo. Ci sono momenti di consumo in cui il prosecco è insostituibile. Solo i produttori possono rovinare questo successo di mercato. Perché dico lo possono rovinare i produttori? Se non si creassero o non si fossero create delle regole. Perché si rovina un prodotto nel momento in cui io, che sono consumatore, non ho fiducia in quello che sto acquistando. Se io continuassi a dare la mia fiducia ad un prodotto che una volta è buono, una volta no, poi una volta era prosecco, una volta qualcuno l'ha falsificato, una volta c'è scritto una cosa e poi in realtà non era quella, poi arriva fuori uno scandalo, questo è ciò che distrugge qualsiasi tipo di prodotto. Ecco dove torniamo al punto di prima: i produttori devono investire ed è anche quel valore di etica che noi dobbiamo trasmettere fra generazioni. L'etica supera anche le regole. Le regole le puoi sfuggire, sei un furbacchione, cominci a costruisci, fai, cioè, poi se mi prendono, se non mi... Ma l'etica è tua, personale, non puoi tradire te stesso. E se noi inseguiamo solo il business, è probabile che decretiamo anche un insuccesso o la fine di un successo. La prima generazione degli Adami ha impiantato il vitigno, la seconda e la terza hanno diffuso il prodotto in Italia e nel mondo. E la quarta? La stiamo formando, si dice così. Adesso noi siamo nell'età in cui i figli cominciano a crescere, fanno le scuole superiori, stiamo preparando perché qualcuno dei nostri figli, uno mio intanto, quelli di mio fratello sono un po' più giovani, frequenta la scuola enologica di Conegliano, scuola enologica che ha formato già tutti noi. Però se vogliamo fare un passo indietro, se mio nonno aveva fatto la terza elementare e grazie a quella terza elementare è riuscito a, nella prima guerra mondiale, a finire al comando perché era istruito. Nell'epoca di mio padre c'era bisogno di braccia, poca scuola, allora quinta elementare o terza media i più fortunati. Però nostro padre è stato bravo perché non ha fatto la stessa cosa con noi a calci, subito a scuola alle superiori a fare enologia. L'abbiamo colta bene perché vivavamo la famiglia vitivinicola. I figli di oggi come li prepareremo? Beh, penso minimo l'università, perché stiamo crescendo e c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di fare ricerca, c'è bisogno di relazioni che sono molto diverse nel corso dei tempi. Io mi auguro che però ci sia una cosa che non è modificata nei tempi. Personalmente ho respirato i valori di mio padre che ha respirato da mio nonno e questo è un augurio che faccio a me stesso, spero di riuscire a trasmetterli anche a mio figlio. E sono l'etica, e sono il rispetto, e sono la voglia di raggiungere i massimi risultati accontentandosi di quelli che si riescono a raggiungere, perché altrimenti vivi in ansia anche per quelli. Quando tu sai che ha dato il massimo, non hai remore contro te stesso, no? Allora formarsi, informarsi e poi dare il massimo e alla fine non ho dubbi, i risultati arrivano. I primi 80 anni dell'azienda di famiglia sono stati ricchi di successi. E Franco Adami immagina così i prossimi 80. Ma io me la immagino un'azienda un po' cresciuta, perché il mercato mondiale è veramente grande. Tanto per dire, noi che esportiamo oggi in 24 paesi stiamo cominciando ad attaccare, anche se non mi piace il termine, però mi piace il senso, tutta la parte asiatica, no? Lavoriamo solo in Giappone ma ci mancano molti paesi, che distribuisce un vino riconosciuto di grande qualità nel nostro target di mercato dell'azienda media, con alla testa dell'azienda delle persone che hanno mantenuto i valori familiari intatti e che hanno invece una formazione e una capacità relazionale molto migliore di quella nostra di oggi e che sappiano rispettare il mercato e soprattutto i consumatori singoli. Io ero sempre convinto che noi dobbiamo lasciare alla generazione futura un qualcosa di arricchito, ma ce n'è una più bella, e cioè la terra che stiamo lavorando l'abbiamo avuta in prestito dai nostri figli. Questa ha una, secondo me, una grande profondità, questa frase, che sembra sia un proverbio indiano. Significa che la nostra responsabilità non è accrescere il valore, la nostra responsabilità è non modificare l'esistente in maniera negativa. Te l'hanno prestata questa cosa. E una persona onesta, secondo me, quando riceve qualcosa in prestito lo tratta meglio del suo. Questo normalmente si fa e questo mi piace come idea, perché questo avvalora ancora di più gli sforzi che stiamo facendo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.